non so cosa fare, se mai mi scusa. Prova. Prova. Eccomi. Siccome c'è la voce medio alta, come va? Proprio in me, ci vedono meglio anche. Però, caspita, la è corposa. Messaggio numero 2. Ma si la sembra ora? Un effetto stanza, Salvatore. Quindi era meglio prima? No, francamente a me piace più adesso. Prima molto boom boom, molto troppo corposa, diciamo. No? Ah, perfetto, ok. Adesso ne cambio ancora un altro, eh? Hai visto già, adesso ce la facciamo. Ti telefono dove? Aspetta, però non c'è più la familiarità che c'è tra un barattino e l'altro. Ok, vediamo un pochettino. Questo è un po' più di alti o meno. Ma non saprei. Così forse prima era ottimale per me. Poi si sente come una ventola in fondo, un po' di rumore in fondo. Se si può attenuare. Adesso cerco il controllo dunque dovrebbe essere dove diavolo lo trovo? CVRF Power. Aspetta, devo cercare il controllo sul microfono. Ecco qua, vediamo un pochettino, forse adesso è meglio. Va bene già. Massimiliano, cosa ti sembra? No, Marco, non è che si sentano differenze sostanziali, conta che io ho un baracchino veicolare, il Superstar 3009. Va bene, comunque diciamo che questo setup in linea di massima dovremmo esserci. Ho visto che sono anche dentro di ALC, per cui ho trovato il tasto e il per diminuire il guadagno microfonico, per cui ci siamo. No, non è carino perché sotto tutti i filtri nel suo programma è abbastanza scarno, no? Niente di eccezionale, però ma tempo fa anche in VHF avevate fatto un Ecolink o roba del genere. Allora dunque c'è proprio il sistema che si chiama però Ecolink, ce l'aveva messo su Massimiliano Archimede, quindi aveva attrezzato un computer con un trasmittente interno con con questo sistema per cui recuperava la trasmissione in arrivo e la instradava sulla rete su internet, e su internet si appoggiava a questo server che permette di poter vedere quali sono i link attivi e quelli privati. Mi ricordava quei server che mettevano quei server ILS che mettevano che faceva vedere gli utenti collegati invece a NetMeeting, quel famoso e vecchio programma di Windows, il simile Skype che però non funzionava mai. Va bene, no, perché mi pareva di aver sentito in V una specie di chiamata, però sembrava una telefonata, si sentiva una timbrica tipo la tua, tipo telefono, no? Con voci di fondo, roba del genere. Ho capito. No, ma si sente il rumore di fondo, o adesso che ho senti di meno. Guarda, nelle pause tra una parola e l'altra, o se lasci la portante fissa, sente una specie di abbastanza consistente, direi. È la sì, perché c'è il microfono, l'audio della, come si chiama, della ventola di raffreddamento dell'alimentatore dell'accordatore da palo, e poi c'è anche un po' di audio in sottofondo della radio e un po' di audio del computer, quindi insomma un po' di fruscio di fondo viene preso. Ehi, tu come mi stai ascoltando? Tramite apparato o tramite computer, immagino? Sì, tramite il computer. No, lo volevo organizzare questo anche così, se disturbo le mie donne, potrei eventualmente, o ad esempio devono stare qui in questa sala per vedere nella TV grande qualche cosa, e ci sono io posso benissimo prendermi il portatile e me lo setto esattamente come se ho settato il programma qui sul computer principale. E ho sentito delle scariche nell'ultimo passaggio. Va bene, comunque funge. Ok, quasi mi allontano anch'io. Sono stasera presso questa radio. Gli ho aumentato leggermente la modulazione col trimmer, era quasi al massimo, ma sono arrivato al massimo. Va bene. Già ti sento, poi siamo così vicini che forse con uno più lontano si riesce ad apprezzare meglio la differenza. Ehi, questo è un mic normale, è un microfono normale di serie dell'apparato. Va bene, vediamo chi ci è rimasto qua. Nessuno. Salvatore, quasi mi allontano anch'io. Credo di dover buttare un paio di buste di spazzatura e mi levo il pensiero prima che sia tardi. Anzi, mi sa che è già troppo tardi, mi iniziavo il film. Vabbè, Salvatore, ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao, grazie o Marco dell'aiuto per configurare questo giocato. Grazie, aggiungici a presto. Ciao, stammi bene. Cappa, provalo stasera se c'è gente, così si fanno un'idea. Eia, adesso vado in 40 metri e faccio subito le prove. E così vedo un pochettino il risultato. Sì, infatti, anche le prove in SSB penso siano utili. Magari penalizzerà un po' il rumore di fondo in SSB, però la modulazione si sente e si sente anche chiara, insomma, cioè capibilissima al 100%. Va bene, quindi ti per me, ciao Salvatore. Ciao Marco, grazie, saluto, ci sentiamo presto. E quindi anche da parte mia.